siamo. Mike from campo, Simo X, yeah, yeah. Mad Boys Crew 2014. Ehi, sì. Ehi, yeah. Ehi, ha. Play, d'ora in poi sono solo cazzi tuoi. Mad Simo, Mad Mike, sulle braccia coi Mad Boys. Spingo il rap dal 2003, ma non so se è lui che spinge me a dare il meglio con ste bombe stile Big Bang. Mad Boys è il mio blocone per l'esecuzione. Mettiamo rabbia, fotta e passione dentro ad ogni canzone. Alza il fader, Mayday, siamo in viaggio e la destinazione è ignota, ma ogni nota fa volare altrove. Io non guido una spider, non faccio il gas al gigante, ma sono come MacGyver. Big bomba devastante, lascio gli stronzi in mutande. Mi adatto come un mutante, velocità allucinante con la musica in tandem. Dentro sto Hunter, chi vuol fare il gigante, ci guarda negli occhi, poi giù la cresta all'istante. Stupefacente flow, ci riconosci bro, siamo il meglio dello show, come Crozza Ballarò. Inossidabili, noi abbiamo un altro stile, il potere non ci importa, non ci importa di apparire. Inossidabili, hip hop fino alla morte, così forte che sconvolge, l'onda sonora ti travolge. Dalle strade al cuore di ogni ascoltatore, che ora tiene tempo su sto beat, che brucia dell'ardore, che la musica ci dà, tutta la città lo sa, tu sentiti migliore, ci trovi sempre qua. Simo e Mike, già lo sai, ci può battere solo flow. Checca, già sei anni fa registravamo in cameretta. Fra, tu sei confuso, io di rap ne abuso. Se ci sfidi è un rischio come fare un tunnel a Gattuso. Cresciuto a pane, panette, lame e carezze. Da evitare manette, tra fame, dame e cagnette. Ci senti il tuo commento, è amen. Ci batterai quando in Toscana non diranno più di Ahane. Faccio programmi per vederli andare in fumo. Scrivo i miei drammi e non li capisce nessuno. Qua tutti schiumano e nessuno è più in bolla. Qua tutti fumano e nessuno si molla. Lo so che devo sudare, io vendo rate perché non ho collane dorate, ma c'ho rate da pagare. Mi sembri un fossile cico, sostanze tossiche in giro. Se senti Simo resti immobile come Ciro. Inossidabili, noi abbiamo un altro stile, il potere non ci importa, non ci importa di apparire. Inossidabili, hip hop fino alla morte, così forte che sconvolge, l'onda sonora ti travolge. Dalle strade al cuore di ogni ascoltatore, che ora tiene tempo su sto beat, che brucia dell'ardore, che la musica ci dà, tutta la città lo sa, tu sentiti migliore, ci trovi sempre qua.